Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21:30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, allora inizia Zardins Magnetics, il programma che andrà fino alle ore 21:30 in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste. Che altro dirvi che dopo la sigla iniziale andiamo con questa band, insomma ascoltiamo uno o due brani per questa band statunitense. Loro sono i Misery, una band che si è formata proprio agli inizi degli anni 90 e questo è il loro album datato 1996 che si chiama Who's the Fool? Misery. We'll be right back. Just a little bit of time, just a time. Let us try, let us try. un saluto a tutte e tutti, anche da parte mia per questa puntata di Zardins di giovedì 22 giugno 2023, dagli studi di Via Volturno a Udine, su Radio Onde Furlane, che ci ospita tutti i zardiniani e le zardiniane che ci stanno ascoltando sulle frequenze appunto di questa radio, oppure in streaming, oppure gli amici di i compagni di Radiazione di Padova, web radio che da tempo anche loro ci ospitano. Partiamo a testa bassa, adesso molliamo le convenevoli, partiamo a testa bassa per questo primo blocco di questa sera, con un diciamo lettura, commento un po' a braccio così nesso nuclearismo disintegrazione di ogni prospettiva rivoluzionaria. Così abbiamo messo nel sommario di questa puntata, il che adesso comincio a spiegare. Perché? Prima però voglio dire perché abbiamo scelto questo nesso nuclearismo prospettiva rivoluzionaria in questi giorni, tra lunedì 19 e lunedì prossimo, che è il 26, ci sarà un'ulteriore tappa, diciamo, giudiziaria, che riguarda la vicenda repressiva, diciamo, paradigma dell'anarchismo italiano di questi anni, che è quello che riguarda la cosiddetta operazione repressiva scripta manent, ovvero l'incriminazione di Anna Beniamino e di Alfredo Cospito per delle azioni compiute in una, insomma, abbiamo parlato varie volte, un vasto, ampio lasso di anni, dai primi 2000 fino a quando è stato Alfredo messo, insomma, catturato e imprigionato, se non da quando appunto è iniziata l'operazione scripta manent e successivi, insomma, metà degli anni 10, 2016, ecco. Quindi è secondo noi importante ritornare su questa importante correlazione tra appunto apparato industriale, tecnologico e appunto la sua massima espressione è il nucleare, l'energia nucleare, perché fornisce l'energia elettrica necessaria a tutta la cosiddetta transizione, detto così veramente molto brutalmente, e tutte quelle che erano le ipotesi, e che sono, cioè, anche le ipotesi, e come devono essere modificate le ipotesi appunto di una rivoluzione. Di tutto ciò faccio ancora un ultimo inciso: avevamo già parlato, e trovate la puntata sul nostro blog da riascoltare, io stesso ne avevo parlato in commento a un articolo su I giorni e le notti, rivista anarchica, del numero 11 luglio 2020, ed appunto era, tra l'altro, riportava degli estratti di sempre dell'Encyclopédie de Nuisance, ma appunto no, prima di passare all'Encyclopédie volevo solo puntualizzare, era il 3 dicembre 2020, noi avevamo cioè, se volete cercare la puntata, e avevamo appunto già fatto una disamina di quell'articolo, appunto, che si partiva dal consigliarismo alla critica radicale, alla impossibilità di modificare tutto, diciamo, l'apparato di che fornisce, insomma, la riproduzione di questa società in una maniera immanente al sistema stesso, e appunto la necessità di ricercare un punto di partenza, ecco, un terreno completamente diverso, non più, appunto, trascendente, per così dire, non più immanente alla quello che è l'industria, la fabbrica, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa era una prima introduzione. Io direi ancora qualche parola su che cos'era questa rivista, Enciclopedia de Nuisance, e poi passiamo, poi dopo mettiamo un brano e poi insieme vedremo un po', insomma, i contenuti di questo opuscolo che uscì nel 1986. Allora, l'Enciclopedia de Nuisance, tra l'altro, è il titolo, cioè il nome scelto per questo progetto di rivista prima, e poi casa editrice, diciamo così, editore indipendente, fa la parodia della celebre enciclopedia di Diderot e d'Alembert, degli illuministi. Ovviamente, naturalmente, si tratta di realtà redazionale, insomma, costituita da elementi che venivano dal movimento situazionista, dalla critica, insomma, radicale dell'area francese degli anni, fine anni 70, insomma, di coloro che avevano fatto 68, avevano resistito al tutto il riflusso di quegli anni. E appunto non è presente se non a brani in traduzione italiana questa rivista, e tra l'altro, appunto, recita il sottotitolo Enciclopédie des Nuisances, Dictionnaire de la déraison dans les arts, les sciences et les matières, scusate la pronuncia, ma è una parodia anche questa del titolo dell'enciclopedia di D'Alembert e di Diderot, ovvero Enciclopedia dei fastidi, dizionario dell'irrazionale nelle arti, nelle scienze e nei mestieri. Bon. Quindi escono questi numeri di rivista tra l'84, 1984, 1992, e collabora ad alcuni numeri anche Guy Debord. Poi, appunto, questa collaborazione cessa per litigi di natura, così. Collabora anche Miguel Amorós, collabora soprattutto, direttore era Jaime Semprún, che pronuncio così come è scritto perché non so come si pronuncia. Comunque, al di là di questo, sono testi di critica sociale che analizzano la società da una prospettiva anti-industriale, quello lì è il piano, insomma, quindi partono da tutte quelle che erano i risultati della contestazione e del movimento, insomma, di contestazione situazionista, dell'analisi, insomma, della realtà completamente alienata che era stata fatta dell'espropriazione delle vite dei proletari, insomma, e di tutti, gli esseri umani dal movimento, sì, dall'internazionale situazionista, ma non solo, appunto, da tutte quelle che erano le spinte del 68, del maggio 68 francese, e appunto cercava di contrastare la corrente di riflusso di quegli anni, scegliendo, appunto, come scelta editoriale, era suddiviso, questi opuscoli erano suddivisi per voce di dizionario, quindi c'era, non so adesso, per dire, un discorso preliminare, storia di 10 anni, poi c'era abbandono, abaco, c'era soppressione della fame, c'era massacro, sì, in francese chiaramente sono tutte espressioni in ordine, no, alfabetico, c'era varie cose, abolire. Il numero che abbiamo scelto per questa sera era appunto, che non l'ho detto, era il numero 8 dell'agosto 86 ed era sempre appunto la lettera A, abim, ovvero abisso. Di nuovo qui in voce su Zardins Magnetics, stiamo parlando di un articolo, insomma, sul nucleare, che comparve nell'agosto 86 sulla rivista Encyclopédie des Nuisances. Allora, nell'86 dobbiamo fare un, beh, cioè, se vogliamo, facciamo una, uno sforzo chi può, chi c'era, chi era già in questo mondo. Successero due disastri, cioè almeno due disastri memorabili. Uno fu quello di, dello Space Shuttle Challenger, ovvero in, cioè, quegli anni c'era questa navicella, era una cosa innovativa, non c'erano più i razzi che partivano della NASA e poi restavano in orbita e poi li recuperavano, insomma, nell'oceano. C'era questa specie di jet, diciamo, stellare, una specie di nave spaziale, era una nave spaziale, insomma, partiva e poi atterrava come un aereo, un aeroplano. A un certo punto, appunto, gennaio 86, questo Challenger, in diretta TV, tra l'altro, quando era già partito da un po' di secondi, esplode completamente. I piloti non vengono più, gli astronauti, che erano, mi sembra, 5 o 6, una cosa del genere, non ha importanza adesso. Era per dirvi che viene fatto questa, insomma, succede questo il 28 gennaio 86, questo grande disastro, perché appunto ci sono questi astronauti che rimangono vittime, ma non si viene, nessuno ancora, cioè non è ben chiara la, era costituito l'equipaggio da 7 astronauti. E non si riuscì a venire a capo del motivo, della causa dell'incidente. Il secondo grande disastro che riguardò, insomma, molte più persone, milioni di popolazioni intere dell'Europa, fu il disastro di Chernobyl, ed è stato, di questo ne abbiamo parlato svariate volte in questi anni, più volte, anche indietro, se andiamo più indietro, insomma, nelle precedenti conduzioni sicuramente. Allora, quello fu invece un disastro che riguardò, appunto, come dicevo, un maggiore numero di persone, molto maggior numero di persone, e in super sintesi, nel corso di un test il personale perse il controllo, diciamo, di un reattore nucleare di questa centrale, il quale appunto cominciò a surriscaldarsi e fece saltare il coperchio, adesso chiamiamolo l'involucro, e quindi fuoriuscì vapore per giorni, vapore naturalmente contaminato. Ve la dico veramente in molto sintesi, che questo vapore, cioè quello che interessa a noi, il vapore raggiunse, a causa delle correnti, sia l'Europa, insomma, Polonia, i paesi dell'Europa di quell'epoca, si chiamavano paesi dell'Est e del blocco orientale, ma anche l'Italia, il nord Italia e parte della Francia. Ecco perché siamo arrivati finalmente. Quindi il discorso della Francia, un po' anche qui va fatto ancora un'ulteriore cornice, perché c'era un certo tizio, che adesso non ha importanza ricordarsi chi era responsabile di questa questione di sicurezza del governo francese sul disastro, appunto, di Chernobyl. Naturalmente tutto questo successe il 26 aprile, venne a galla piano piano, tutte le autorità negavano, prima quelle sovietiche, poi anche quelle, insomma, così occidentali, se non che c'erano gli strumenti che misuravano la radioattività, che era sballata, non era sballata, misuravano la realtà, insomma, che c'era contaminazione. E, però, siccome la Francia, per motivi di correnti d'aria, insomma, fu colpita solo in una precisa zona, che è l'Isère, cioè una zona centro-meridionale, cioè la zona di, per capirsi, di Grenoble, su, verso la Svizzera, diciamo, la, la parte della Francia verso la Svizzera, e il resto appunto veniva fatta questa grande propaganda in Francia, dove si diceva che il, tra, tra parentesi, la Francia è un grande produttore ancora adesso di, sì, insomma, di beni, insomma, di, ha un'agroindustria molto sviluppata, fornisce, insomma, quelle, son, l'agricoltura fornisce, rifornisce, gran, insomma, esporta anche gran parte di quello che produce, quindi volevo dire è una, è un ingranaggio importante quello della, dell'agricoltura, ecco, in Francia ancora adesso, e quindi, e dell'allevamento, e insomma facevano propaganda dicendo che il pollo e il, la ver, l'insalata francese erano buonissime, tutte le potevano mangiare, ecco, tutto qua. Da questa, partiamo appunto da questa questione del, da questo primo tema, che è quello appunto del, dei disastri vi, visti come un test in scala 1 a 1, insomma, avevamo parlato qualche settimana fa del, se non l'altra settimana, se non sbaglio, del complottismo, e quindi insomma in, siamo nelle zone dei situazionisti, chiaramente sono maestri nel complotto, e quindi loro dicono ma no, ma non è, non, ve la dico anche questa, ve la, insomma, ve la racconto così con le mie parole, non è il, cioè non sono dei disastri casuali, sono dei disastri probabilmente inevitabili, sicuramente, e che vengono però reinseriti dentro la catena, perché vengono utilizzati come test in scala reale, dimensioni reali di quello che può succedere, quindi vedere le reazioni anche della popolazione, come reagisce, fin dove arriva il grado di obbedienza, fin dove arriva il grado di sottomissione, quindi un punto, un primo punto è questo qui, no? Dice naturalmente tutti i rischi sono, sono accettabili quando si fa in modo di non permettere a chi se li prende la possibilità di rifiutarli. Questo impeccabile realismo della gestione burocratica permette di ottenere facilmente in ogni campo dei test in dimensioni reali che mancano ancora al sapere sulle catastrofi, diciamo, del, del, sì, del, del dominio, il dominio non ha, manca ancora di questi test di dimensioni ideali, e quindi al suo sapere sulle catastrofi, alle sua, alla sua scienza catastrofica. E passiamo quindi con un secondo punto importante di questo articolo al discorso sulla scienza. Gli scienziati, anche partendo dal disastro di Chernobyl, diedero un materiale, insomma, utile da, per essere analizzato dai, dagli enciclopedisti, che individuano appunto nel, soprattutto nel, nella bravura nel nascondere, diciamo, la, la realtà di cui collaborarono gli scienziati e i funzionari e, insomma, e i tecnici a tutti i livelli durante questo, questa, questo disastro nucleare. Per loro appunto il discorso, al discorso che a loro importa è quello sul, sull'astrazione, diciamo, sul di che diventa talmente, insomma, per loro importante da, cioè da sostituirsi al, al discorso sulla realtà, cioè la realtà è talmente, viene talmente occupata da queste, diciamo così, discorsi, analisi, astrazioni scientifiche, che rimane anche poco spazio per la realtà stessa. Quindi per gli scienziati, leggiamo, l'albero astratto delle loro ipotesi sulla scomparsa delle foreste nasconde la foresta scomparsa, e la pazienza con cui questo, con cui, beh, potano questo albero ipotetico, mostra abbastanza che essi sono disposti a sacrificare tutte le foreste reali e tutta la vita reale per perfezionare la loro conoscenza dei deserti dell'astrazione. E voi siete liberi di considerarmi il tossicodipendente. Ecco, ancora in così in voce per questa ancora qualche parola sul nuclearismo e sull'annientamento di ogni ipotesi rivoluzionaria, no, cioè sul loro nesso, no? Sul collegamento tra queste due cose, su come appunto quello che si vorrebbe far emergere questo che allo stesso modo in cui il progetto di nuclearizzazione, di nucleare, insomma, di ricavare energia dalla fissione atomica per il messa in perché stia in piedi, per la stessa sopravvivenza, ecco, del sistema capitalista, da un lato appunto è la massima espressione, ecco, la punta di diamante, no? L'energia nucleare del capitalismo in tutte le sue forme, anche nelle più avanzate. Dall'altra parte, appunto, si rivolge proprio il nucleare, insomma, si rivolge proprio a negare o a colpire o a rendere impossibili le condizioni perché avvenga una rivolta tra gli oppressi e, insomma, si scateni una possibilità di vita diversa per tutti, insomma, che renda possibile una esperienza di vita completa, non alienata, appunto, non spersonalizzata, con rapporti umani degni di questo nome, eccetera eccetera. E dentro il punto, dentro la realtà di questo disastro di Chernobyl, come fu gestito nei mesi successivi al disastro e nell'Europa occidentale e nella fattispecie in Francia, c'erano alcune voci dissidenti, così possiamo dire dissidenti, anche in ambito, così, diciamo, tra gli esperti. E si prende appunto in esame anche questa questione della possibilità di essere dissidenti, e certamente dove si vuole arrivare è che cioè che il ruolo che hanno queste dissidenze è molto, cioè, molto complicato, anche molto problematico, che comunque è necessaria una, diciamo, cioè è un fatto in sé non insignificante che ci siano dei disertori, delle voci che non sono disposte a negare la loro competenza, la loro passione anche, no? E, tuttavia, leggiamo, esistono in tutti i settori specialisti pronti a comportarsi da disertori, ma mancano forze pratiche atte a offrire loro, con un campo d'azione, anche un impiego emancipatorio delle loro capacità. La questione del doppio potere, cioè del potere e del contropotere, si intende, non può essere rinviata al momento di trasformazione rivoluzionaria. Esso si pone nel suo stesso progetto, poiché per arrivare alla conoscenza esatta della realtà da trasformare è già necessario acquisire una potenza pratica indipendente dalle informazioni del potere. Ovvero, non bisogna aspettare, avete capito cosa, sì, insomma, è inutile che vi faccio la parafrasi, ma questa era la posizione nei confronti dell'informazione, dei tecnocrati, eccetera. Un ultimo ancora aspetto che secondo me era significativo era appunto che ho accennato prima, quello appunto che dava il titolo a questo blocco. Per i promotori del gruppo Bhopal, le lezioni apprese dal Dipartimento ad alto rischio, in Isère appunto si parla, poi trasformate in un modello sicuro, possono essere estrapolate a un livello nazionale. Cioè, appunto, c'era il tentativo di recuperare, no? Nel senso di dire, se questo è un esperimento in dimensione reale il disastro, lo trasformiamo in un esperimento in scala reale per vedere, insomma, se il nostro apparato tiene, allora è recuperabile, allora, cioè, lo salviamo, no? Cioè, facciamo vedere che noi non possiamo fallire, anche laddove falliamo. Quella cosa lì è solo un momento di recupero che poi reinseriamo dentro la nostra sfera e andiamo avanti. È facile intuire che un tale modello, per quanto sicuro possa essere, dicono invece gli enciclopedisti, non può che essere efficace nell'abituare la popolazione all'idea di compiere le grandi e piccole manovre di sopravvivenza militarizzata sotto comando. Il vero scopo di tutte le esercitazioni e dei piani di evacuazione è quello di misurare e quindi rafforzare la docilità delle persone, e la manipolazione di questa docilità in modo da favorire una sempre maggiore concentrazione di potere. dico ancora, in prima linea in questa lotta i nuclearisti, che traducono il rifiuto della storia in precisi poteri tecnici o tecnologici, credono di avere trovato nel ricatto permanente dei loro imperativi di sicurezza l'arma assoluta della sottomissione. E i disastri che, secondo la vecchia logica del racket, sono paradossalmente la garanzia della loro supponenza, dovrebbero quindi sostenere il loro credito fallimentare, sempre che, evacuando gli evacuatori, gli uomini non si siano impegnati a ricostruire il territorio della vita. Ho chiesto ancora un ultimo intervento perché mi premeva ancora dire ancora due cose. Allora, rispetto appunto, ancora, leggiamo ancora dei brani, rispetto appunto a questo discorso dell'esperimento e dove va a colpire insomma il progetto di nuclearizzazione della realtà. Di questa organizzazione sociale possiamo quindi dire che la vita è, sotto tutti gli aspetti, al di là dei propri mezzi. Da un lato, se lo è quella degli alberi e la normale esistenza degli uomini, si ammette che le necessità sono troppo costose per l'economia esistente. D'altra parte, i mezzi tecnici che questa società ha scelto di sviluppare sono quelli che le permettono di poter fare a meno dell'attività umana, dell'iniziativa dei singoli. Ricordiamo l'affermazione di uno dei primi studiosi dell'atomo, secondo cui l'energia della fissione è a lungo termine incompatibile con la razza umana. Incompatibile. Il solo problema di questi fanatici non è assolutamente quello di limitare un po' i capricci atroci della loro macchina. No, su questo sono incrollabili. L'unica cosa che scuote ciò che funge in loro da spirito è che le loro sfortunate vittime pretendono di uscire dal loro ruolo di ignoranti e ottenere l'accesso a una conoscenza esatta di ciò che è stato loro inflitto. Ah, boh, scusate, no, è solo un problema della diretta, si è bloccato il CD e boh, adesso con la calma metteremo altra musica. Io intanto credo che mentre viene scelto il supporto giusto, sto quasi per salutarvi e per poi insomma daremo la linea all'altro intervento. Power, I'm good. Bene, sfumo un po', tengo in sottofondo questa band che stiamo ascoltando, sono gli Extinction of Mankind, band inglese, anche questa proprio sarà formata alla fine degli anni 80, inizio anni 90, tant'è che questo è il brano che stiamo ascoltando, è dal loro album Baptized in Shit, che è del 94, comunque giù di lì. Mentre volevo dire anche che prima tra i vari interventi abbiamo ascoltato due band, al di là di sentire sempre i Misery in sottofondo, che è stata la band di inizio trasmissione, abbiamo ascoltato due band pugliesi, i Minus e gli Squalo, rispettivamente una band di Bari mentre l'altra era della provincia di Taranto, i Minus 3 della provincia di Taranto. Vabbè, rimaniamo con gli Extinction of Mankind. Sì, un saluto anche da parte mia, in questa seconda parte di Zardins di oggi, così volevo dare degli aggiornamenti, insomma parlare un po' dell'udienza che si è tenuta il 19 giugno, cioè lunedì, presso il Tribunale di Torino, udienza che aveva lo scopo, diciamo, del ricalcolo della pena nei confronti di Anna Beniamino e Alfredo Cospito, accusati di strage contro la sicurezza dello Stato, in quanto ritenuti autori di un attacco senza morti né feriti contro la caserma degli allievi carabinieri di Fossano nel 2006. Allora, nel 2016, scusate, all'interno di questa udienza, praticamente, allora, intanto questa udienza qua c'era perché c'è stata, in quanto c'era stato su questo discorso dell'ergastolo, diciamo, come unica pena per questo reato di strage contro la sicurezza dello Stato, c'era stato un pronunciamento della Corte Costituzionale. E va ricordato che questo pronunciamento è l'esito dello sciopero della fame di Alfredo e delle mobilitazioni che hanno sostenuto la sua lotta. E nonostante quindi questo pronunciamento della Corte Costituzionale, all'interno di questa udienza la Procura di Torino ha ribadito lunedì 19 la sua intenzione di praticamente murare vivi Anna e Alfredo, richiedendo 27 anni e un mese per Anna e l'ergastolo con 12 mesi di isolamento diurno per Alfredo. E poi la Corte ha preso tempo, insomma, la sentenza è rinviata al 26 giugno. E vabbè, io un po' intendo leggervi le dichiarazioni spontanee che Anna e Alfredo hanno potuto leggere durante il processo in videoconferenza, perché sono due documenti importanti, insomma, e è un modo anche per dare loro voce e per continuare la solidarietà, ma anche, appunto, continuare, diciamo, a diffondere i contenuti, appunto, che questi compagni anarchici portano avanti. E appunto per questi aggiornamenti sull'udienza del 19, così ho preso spunto anche da una testimonianza di un compagno della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, che ha raccontato un po', diciamo, anche il dietro le quinte dell'udienza. Beh, intanto una cosa abbastanza importante, perché è una specie di misure, diciamo, preventive, anche applicate anche alla solidarietà. Allora, al processo potevano accedere massimo 20 persone e la procura ha dato mandato alla Digos di bloccare l'accesso all'udienza, non solo alle persone in qualche maniera colpite da misure di prevenzione, cosa che è abbastanza diciamo automatica, cioè non ti fanno passare se sei colpito ai processi pubblici, pur essendo processi pubblici non ti fanno passare se sei colpito da misure di prevenzione. Ma la procura non si è limitata, diciamo, a dare questo mandato alla Digos, ma praticamente ha anche fornito una lista di nominativi di compagni e compagni che non hanno potuto avere accesso all'udienza, anche se non colpiti da misure di prevenzione. E nello specifico due compagni e una compagna non hanno potuto accedere all'aula del tribunale. E appunto cosa arbitraria, appunto, è stato definito, un po' così anche ridendoci sopra, ma una specie di DASPO applicato ai tribunali, un DASPO della solidarietà applicato dai tribunali. E insomma, è una cosa abbastanza, cioè non si era sentita finora. E quindi va vista anche come un po' un passaggio di innovazione, un salto di arbitrarietà ulteriore per cercare di rompere la solidarietà. E vabbè, oltre a questa cosa qui, cosa va detto? Va detto che praticamente la procura, oltre a... poi ci sono diversi articoli, se andate a vedere sul sito di Ristretti Orizzonti ci sono tutta una serie di articoli dove, appunto, si esprimono... se la procura si esprime, i PM si esprimono, insomma, in maniera, appunto, in questa maniera, insomma, per farla finita, diciamo, con gli anarchici. E allora la procura, appunto, in tutta questa operazione ha fatto questo tentativo di far acquisire agli atti altro materiale relativo al processo. Materiale costituito da mail, da comunicati diffusi online, insomma, del materiale praticamente cartaceo o comunque non cartaceo ma veicolato dalla rete, e quindi materiale informativo, controinformativo e politico, e tutto questo materiale raggruppato da, dalla procura dal 2019 ad oggi, quindi tanta roba. E con questi materiali la procura voleva dimostrare quanto sia attuale la pericolosità sociale e criminale di Anna e Alfredo. La difesa si è opposta e in cambio ha proposto la visione e l'acquisizione di un video che è stato girato dalla Polizia Scientifica di Torino la mattina successiva all'attacco di Fossano, video che appunto in qualche misura dimostrava la non letalità dell'azione, la politicità dell'azione, ma la non letalità. E comunque la Corte ha deciso di non accettare nessuna delle due insomma delle due cose messe, che venivano proposte di essere messe agli atti. Anna e Alfredo erano collegati in videoconferenza, appunto entrambi hanno preso parola e sì, quindi insomma io volevo appunto leggervi entrambi i loro interventi. Alfredo ha fatto un intervento più specifico in contrasto su 41 bis, ma anche ha parlato della situazione particolare di persone detenute nel reparto San Paolo di Milano, ha parlato molto dello sciopero della fame di Domenico Porcelli e insomma ha aperto, diciamo, in maniera molto anche generosa lo sguardo anche su queste persone, sulle altre persone che sono invece a pro della fame o comunque lo sono state e hanno anche fatto una brutta fine, e in generale sulle persone anche che sono da anni immemorabili al 41 bis e sulle loro condizioni. Anna ha fatto un ulteriore ragionamento rispetto alla natura politica del processo Scriptamanent. Beniamino, dichiarazione all'udienza del 19 giugno 2023 presso la Corte d'Assise d'Appello di Torino. Dopo anni di processo, decine di udienze, non mi stanco di continuare a ribadire quanto dichiarato finora, ad affermare alcune semplici e tautologiche verità contro l'esercizio del falso perpetrato con metodo scientifico nelle aule di tribunale. Gli anarchici sono anti-autoritari, gli anarchici non sono stragisti e tantomeno difendono azioni stragiste. Le stragi che sono state perpetrate in questo paese sono state il frutto avvelenato dell'intrecciarsi di potere politico ed economico, quanto di più lontano dal pensiero e dalle pratiche antiautoritarie. Siamo in un processo politico per cui non vale la realtà dei fatti, ma la potenza delle suggestioni, tanto più è abnorme ed assiomatica l'accusa, tanto è vanificata la difesa. Si continua a straparlare di stragi, ma quella vera è quella compiuta sulla realtà dei fatti. Vi siete inventati i capi anarchici, le associazioni funzionanti a singhiozzo o strutturate come scatole cinesi in cui non si capisce neppure più quali siano i contenitori e quali i contenuti. Le perizie grafiche probabilistiche per attribuire i fatti. L'ultima chicca in ordine di tempo è stata la collusione tra anarchici e mafiosi. I meccanismi argomentativi, nell'attribuzione dei reati e nella creazione di profili biografici ad hoc, rendono gli scenari orwelliani qualcosa di squisitamente retro. Gli inquisitori mentono, sapendo di mentire, e facendosi scudo della refrattarietà degli anarchici al mercato della giustizia. Giocano sul fatto che l'etica anarchica non è in vendita al miglior offerente. La macchina infernale della DNA, Direzione Nazionale Antimafia, diventata DNAA, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha bisogno di scalpi per macinare consenso e per fortificare l'impalcatura della repressione preventiva. Servono nemici interni, non importa se costruiti ad arte con falsità storiche, politiche, fattuali e processuali, se no la macchina rimane senza benzina e di regimi speciali sguarniti di carne e di anime. Oggi è rimasta solo la nostra testa sul piatto, ma non va dimenticato che per anni decine di compagni e compagni sono stati inquisiti e incarcerati in questo ed in procedimenti paralleli che si autoalimentano, così come è successo per i procedimenti che hanno portato al 41 bis per Alfredo Cospito. Crollano le impalcature delle operazioni Bialystok e Sibilla, non ci sono capi e istigatori, però il 41 bis rimane. Colgo una tragica ironia in tutto questo. I vari inquisitori si impappinano, non conoscendo bene neppure la sostanza dell'accusa. Infarciscono le loro carte di palesi falsità e contraddizioni. Basta arrivare al risultato. Nulla di strano. È l'etica malata di un'epoca dove si santifica il profitto assassino e si criminalizza la povertà. Roma, 19 giugno 2023, Anna Beniamino. Alfredo Cospito, dichiarazione all'udienza del 19 giugno 2023 presso la Corte d'Assise d'Appello di Torino. Questa mia dichiarazione è strettamente legata al processo, perché entra nel merito del trattamento sanzionatorio che mi avete inflitto, trattamento sanzionatorio incostituzionale e che contraddice le vostre stesse leggi, trattamento sanzionatorio il 41 bis, che stravolge il senso stesso della mia carcerazione, imponendomi una censura insensata che limita il mio diritto alla difesa. È evidente a tutti come la mia vicenda processuale sia stata usata come una sorta di clava da una parte politica, virgolette il governo, contro un'altra parte politica, la cosiddetta virgolette opposizione. Il mio trasferimento all'ultimo momento da una sezione a un'altra in previsione dell'arrivo dei parlamentari PD ne è un esempio lampante, che dimostra come siano stati strumentalizzati il DAP e il 41 bis per fini politici. Questi fatti sono strettamente legati a questo processo perché sono il prodotto delle dinamiche politiche passate che hanno portato alla nostra accusa e condanna spropositata per strage politica. Il taparmi ora la bocca, nell'unico momento in cui posso difendermi, vorrebbe dire avallare questa deriva pericolosa e totalitaria. Prima di parlare di Fossano e della cosiddetta strage, anche se c'è poco da dire, basterebbe guardare le immagini dei danni della tremenda esplosione, per soli 2 minuti mi toccherà accennare a 3 morti, di 2 delle quali in qualche modo sono responsabile. La terza morte, quella di Cosimo, è avvenuta al centro clinico di Opera, reparto 41 bis. Sono tutte morti legate alla mia vicenda, perché legate all'impunità del regime di cui da un anno mi tocca lottare e sopravvivere per non soccombere. Non posso tacere, lo devo ai condannati a morte rinchiusi in quel centro clinico, lo devo a chi è stato lasciato morire e a chi in questo momento nel carcere di Sassari si sta lasciando morire per far sentire la propria voce. Lo devo a Domenico Porcelli, in sciopero della fame da 4 mesi, al suo fianco i figli e Maria Pintus, il suo avvocato. A sostenerlo sono quei pochi rivoluzionari anarchici, comunisti e indipendentisti sardi che a costo di galera e repressione si battono contro il 41 bis. Domenico, per lo Stato, è un mafioso, quindi indifendibile carne da macello. Per lui la Costituzione non vale, per lui nessuna stucchevole passerella di politici, nessuna attenzione dei media. Ne sono certo, Domenico non farà notizia neanche da morto, come d'altronde è successo a 2 poveri cristi morti uno dietro l'altro di sciopero della fame nel carcere di Augusta, e di cui mi sento responsabile perché influenzati dalla canea mediatica che ha seguito il mio sciopero, che a seguito del mio sciopero hanno azzardato scivolando velocemente verso la morte. Le loro morti non hanno destato alcun scalpore, un silenzio complice osceno che le ha avvolte. Uno di loro era un cittadino russo e chiedeva semplicemente di essere rimpatriato. Immaginate cosa sarebbe successo se a morire di fame in un carcere russo fosse stato un italiano. Associazioni umanitarie e media avrebbero scatenato il finimondo. Invece la sua morte è passata inosservata, l'indifferenza è stata totale, rivelando la faccia ipocrita, razzista, imperialista dell'Occidente, la faccia ipocrita dello stesso Stato etico che per tenere nascoste le sue vecchie complicità mantiene in piedi il baraccone degli orrori del 41 bis. Un segreto di Pulcinella, che sono 30 anni che resiste, che nessuno ha il coraggio di affrontare, chi tocca muore, e che finirà nella volontà di chi l'ha ideato solo quando l'ultimo testimone di quell'accordo tra Stato e mafia sarà morto e seppellito tra queste mura. Certe volte ho il dubbio che il sistema stesso che voglia essere raccontato, perché altrimenti trasferirmi a Opera, in quello che Nordio ha avuto il coraggio di definire come una struttura medica di eccellenza. Un caotico e mortale baraccone dove vecchi e moribondi vengono parcheggiati in solitudine in attesa della morte. In questa sottospecie di manicomio nei corridoi piove, l'estate si muore dal caldo, l'aria condizionata non funziona, l'inverno si muore dal freddo. Alle finestre bocche di lupo, scarafaggi, formiche, zanzare impazzano tormentando persone allettate, paralizzate, anziani, moribondi, ciechi. Tra il giugno e l'ottobre del 2022, in un centro clinico che può ospitare, tra virgolette, 12 persone, in 6 non ce l'hanno fatta, non sono sopravvissuti. Se si è fortunati, qualche giorno o d'ora prima della morte, si viene trasferiti in ospedale, dove il trattamento è più umano, ma dove si muore sempre tra estranei, senza l'affetto dei propri cari. Tutto è sulle spalle dei ragazzi e delle ragazze che si occupano di pulire e si arrabattano tra pannoloni e medicinali, e gli infermieri e le infermiere che cercano di fare del loro meglio, ma sono in pochi. La dottoressa responsabile scarica la responsabilità sugli infermieri, dandosi spesso per malata, cosa abbastanza imbarazzante. Naturalmente, parlando di detenuti in situazioni sanitarie precarie, dove basta essere trascurati un tantino in più per vederti scivolare verso la morte. Le obiezioni da parte dei malati scarseggiano, ma qualche detenuto impavido ha protestato e i tribunali gli hanno dato ragione. Ma parlando di 41 bis, di un mondo a parte e di figli di un Dio minore, tutto è rimasto invariato. Nessuno dovrebbe morire isolato in una cella, sotto l'occhio freddo di una telecamera che lo filma in stanza 24 ore su 24, come è successo nel giugno 22 a Cosimo Di Lauro. Questo detenuto è morto di inedia, non era in sciopero della fame, semplicemente aveva smesso di bere e mangiare. Secondo le testimonianze che ho ascoltato, e non solo da detenuti, non ci stava con la testa. Una mattina la guardia lo trova morto, monitorato in cella da una telecamera, la sua agonia filmata, senza che nessuno muovesse un dito. Di Lauro non arrivò mai in ospedale, al contrario del sottoscritto, trasportato in ospedale al minimo accenno di malore, anche se non in pericolo immediato di vita. Cosimo, un semplice mafioso, virgolette, e in più non in grado di ragionare e di far valere i propri diritti, venne lasciato morire, venne aperta un'indagine, vennero prese delle testimonianze, anche quelle di un coraggioso detenuto, ma tutto venne insabbiato, fino a oggi almeno. Quante cose ho visto in questo mio anno di 41 bis. Non sono solo le morti a essere insabbiate, ma può capitare che il 41 bis sia strumentalizzato per altri fini. E questo uso improprio insabbiato, a essere insabbiato il fin troppo chiaro uso del DAP da parte del governo per dare addosso alla cosiddetta opposizione. Sto parlando della passerella dei deputati del PD a Sassari e l'uso strumentale da parte del governo delle informative del DAP che mi riguardavano per dare addosso al PD. Per capirci la stupida piazzata di Fratelli d'Italia in Parlamento, è indicativo il mio trasferimento appena qualche giorno prima dell'arrivo dei parlamentari, di cui sono certo il governo era a conoscenza, da una sezione tranquilla in cui passavo, tra virgolette, in cui passavo le giornate in solitudine, in una sezione dove nell'ottica distorta del DAP vi erano pezzi, virgolette, grossi di Sassari, i cosiddetti boss, che detto tra parentesi hanno fatto di tutto per convincermi a smettere lo sciopero e che poi sono stati messi alla gogna mediatica per colpa mia. Nessuno mi toglierà dalla testa che il DAP sia stato ispirato, fra virgolette, dal governo. Appena dopo la visita dei parlamentari la sezione fu smembrata e io trasferito a Opera. Quante ingenue trappole mi sono state tese che poi regolarmente si sono ritorte contro il sistema stesso. Sequestro di appunti processuali trasformati in pizzini, l'accusa ridicola di un'alleanza tra mafia e anarchici, l'accusa surreale di aver fatto finta di fare lo sciopero. La convinzione che mi sono fatto in questo anno è che il 41 bis non abbia il reale obiettivo di spezzare il fenomeno delle organizzazioni criminali, ma mettere il bavaglio a una generazione di mafiosi che lo Stato 30 anni fa ha usato e poi tradito, rinchiudendoli qui dentro fino alla morte che gli tapperà la bocca per sempre, e questo per la paura che una volta fuori i segreti oscuri della Repubblica possano essere svelati. Questo è, come dicevo, il segreto di Pulcinella che sta dietro l'intoccabilità di questo regime. Il 41 bis verrà tolto quando l'ultimo testimone scomodo di quell'epoca sarà morto, questo naturalmente se non verrà esteso al resto del cosiddetto sistema giustizia. La barbarie tende a dilagare e può sfuggire di mano. Tra mafia e Stato, molte similitudini, volontà egemonica, monopolio della violenza, gerarchia, autoritarismo. Ma poi, una volta qui dentro, mi sono reso conto che oltre a queste caratteristiche comuni indubbie, si aggiunge una sorta di peccato originale, che ha bisogno di un sistema liberticida come il 41 bis, per tenere insieme i cocci, senza il quale il sistema nel suo complesso si sfalderebbe. Consiste proprio in questo l'intoccabilità del 41 bis, il suo essere diventato il punto nevralgico di tutto il sistema democratico totalitario, la vera faccia della Repubblica Italiana. Per il resto, che dire, nulla è cambiato. Le foto dei miei genitori sequestrate un anno fa qui a Sassari e restituite col timbro della censura al mio arrivo a Opera, di nuovo trattenute al mio arrivo a Sassari. Niente musica, la mia richiesta di comprare un lettore CD rigettata dalla direzione del carcere, a quanto pare libri e musica continuano a essere visti dal DAP come qualcosa di sovversivo, in fondo non hanno tutti i torti. Da quando sono al 41 bis non tocco un filo d'erba, un albero, un fiore, solo cemento, sbarre e TV. Negli ultimi mesi con grande fatica sono riuscito a comprare un solo libro e solo perché di me parlavano i media. I colloqui una sola volta al mese col vetro, e con la voce metallica dei citofoni. Le mie sorelle e mio fratello, che sono gli unici che possono venire a trovarmi, vengono al loro arrivo incerottati sui tatuaggi e sugli orecchini, perché potrebbero comunicare messaggi criptici attraverso disegni tatuati. Comunque, queste mie rimostranze diventano ridicole dopo quello che ho visto al centro clinico di Opera. Ho visto con i miei occhi lo stato che si pretende etico applicare la legge della ritorsione su vecchi e malati, inermi, semi-infermi di mente. La mia richiesta ingenua di libri, musica, periodici anarchici, scientifici, storici e un prato dove correre di qualche albero diventa risibile, quasi stucchevole. Me ne rendo conto. Abolire il 41 bis, grazie compagni e compagne, sempre per l'anarchia, Alfredo Cospito. Lasciamo in sottofondo questa band inglese della zona di Londra, loro sono gli Inner Terrestrial, dal loro album datato 2003 che si chiama X. E approfitto anche per dire che siamo giunti al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics. È una trasmissione che va in onda dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine ed è in diretta dalle ore 20 alle ore 21:30. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione dei Friuli e Trieste. Bene, siamo proprio al limite con i minuti, e ricordo i nostri contatti, che potete scriverci tramite posta elettronica nella mail liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo che questa puntata di Zardins Magnetics, ma anche tutte quelle avvenute nelle settimane scorse, potete riascoltarle smanettando su internet, e troverete zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, siamo al termine. Un saluto a tutti e anche a chi ci ascolterà domani venerdì dalle ore 17 sulla web radio Radiazione. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con un sottofondo, anzi con un altro brano, non lo so quanti minuti avremo ancora a disposizione, anzi secondi, con questi sempre Inner Terrestrials. Ciao a tutti. The work's all done, it's time that you were moving on. Better get on someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shit! I was born on a common by a building site. The land was rotted by the tribe. sana poppa c'è, bene che può, someplace else, move along, get along, move along, get along, come, move, shit. Wise men came so stern and strict.